America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Breaking news out of Staten Island here in New York, Gretchen, a grand jury has just decided not to indict a New York City police officer over the death of Eric Garner. Lo avete sentito, uno dei tanti annunci di ieri che davano la notizia, un grand jury di Staten Island ha deciso di non procedere contro Daniel Pantaleo, il poliziotto che ha ucciso, e in questo caso occorre dirlo, Eric Garner, un nero di 43 anni, il 17 luglio scorso a New York. Inutile dire quanto questa decisione abbia riportato alla memoria gli incidenti di Ferguson, le proteste di Ferguson, le ingiustizie di Ferguson, e devo dire che in questo caso di ingiustizia si deve parlare, perché Eric Garner, un omone di 43 anni, un padre di 6 figli, non aveva attaccato il poliziotto. Abbiamo visto tutti il video, sono sicuro che l'avrete visto anche voi, in cui lui stava con le mani alzate, diceva lasciatemi perdere, ma è inutile che ve lo descriva, sentiamo direttamente i momenti immediatamente precedenti all'uccisione di Garner. Ecco, avete sentito? Garner è accerchiato da 4 poliziotti. Lo accusano di aver venduto illegalmente delle sigarette, di aver fatto il contrabbando di sigarette. Altri dicono che non era vero, che lui aveva cercato semplicemente di separare delle persone che stavano litigando. Non è chiaro che cosa stesse facendo, però se voi vedete questo video, vedete un omone che pesa 180 kg, molto alto, in shorts e in maglietta, con le mani alzate, che dice: mi sto occupando degli affari miei, non sto vendendo niente, mi state perseguitando, lasciatemi perdere, agente, mi lasci perdere, non ho fatto nulla. Poi subito dopo parte l'attacco, sentiamo. Ecco l'attacco, questi 4 poliziotti lo accerchiano e a un certo punto vanno verso di lui, lui lo sentite, dice don't touch me, non mi toccate, lasciatemi perdere, e loro naturalmente procedono, lo aggrediscono, e uno di questi poliziotti lo acchiappa con quella che noi chiamiamo la presa a cravatta, il chokehold in inglese, in americano, e cioè quando si mette il braccio intorno al collo, si stringe e si cerca di buttar giù la persona. In effetti riescono a buttarlo giù, gli saltano addosso, lui resiste. A un certo punto si vede un altro poliziotto, un quinto poliziotto, che arriva e che gli si mette addirittura sulla faccia, lo stanno praticamente soffocando, e infatti lui dice I can't breathe. Questo è il momento chiave, sentiamo. Ecco, avete sentito questo appello drammatico, non posso respirare, non posso respirare, non posso respirare. E tra l'altro la presa a cravatta, questa presa al collo, è proibita, è illegale, è vietata alla polizia. Dunque il poliziotto che l'ha fatto ha commesso a tutti gli effetti un atto illegale contro una persona che non li stava attaccando. Non posso respirare, e il povero Eric Garner muore lì per terra sulla strada, e ci sono 7 minuti. Questo mi ha colpito molto, devo dire, 7 minuti in cui si vede lui che è praticamente fuori conoscenza, i poliziotti preoccupati che cominciano a girargli intorno, arriva il servizio di emergenza, ma in tutto questo tempo non gli hanno mai tolto le manette. Insomma, immagini devastanti per la polizia di New York, immagini che hanno devastato dopo la decisione di non procedere per un atto di violenza contro un innocente, che hanno devastato l'America, come vi ho detto, proteste a New York e interventi a tutti i livelli. When anybody in this country is not being treated equally under the law, that's a problem. And it's my job as president to help solve it. Barack Obama che interviene di nuovo, dice: non sono solito esprimermi in casi in cui c'è ancora un'indagine in corso, ma in questo paese, ha detto Obama, fino a quando non tutti saranno trattati in modo uguale davanti alla legge, avremo un problema. È il mio compito come presidente è di risolvere questo problema. Subito dopo l'intervento del presidente, quello di Eric Holder, il ministro della giustizia, che annuncia un'indagine federale. Sentiamolo. I'm here to announce that the Justice Department will proceed with a federal civil rights investigation into Mr. Garner's death. Ecco, il discorso di Holder è stato abbastanza personalizzato. Come avete sentito, ha annunciato l'avvio, indipendentemente dal grand jury, di un'inchiesta federale per possibile violazione dei diritti civili di un individuo. Un sentimento, devo dire, questo condiviso da tutti, proteste un po' dappertutto in America, soprattutto a New York, devo dire, le strade erano traboccanti di gente in quartieri particolari, a Union Square, a Times Square, a Grand Central Station, nella stazione, c'erano decine di persone che si erano sdraiate per terra, una protesta silenziosa finora, perché poi nella notte ha parlato la famiglia di Eric Garner e ha chiesto, ha implorato di non cadere in violenze, di non passare ai saccheggi. You really want to dignify the life of Eric Garner, you will do so through peaceful protest. You will work relentlessly for change. You will not sully his name with violence or vandalism. That doesn't bring us closer to a better community. Di nuovo un appello toccante, quello di De Blasio, perché ha un figlio nero che si chiama Dante. Nessuna famiglia dovrebbe passare quello che sta passando la famiglia Garner, ha detto. Il sindaco ha cancellato la sua apparizione all'illuminazione dell'albero di Natale al Rockefeller Center. Doveva essere quella di ieri una giornata di festa, di gioia, l'avvio di Natale, ma come è successo per il Thanksgiving, anche in questa giornata c'è stata questa macchia del razzismo, dei due pesi e delle due misure, che ha turbato non soltanto la città ma l'intero paese, e che riassume, devo dire, nelle parole di De Blasio quello che sente la gran maggioranza delle persone. De Blasio ha detto: mio figlio Dante è afroamericano, non potrei mai immaginare di perderlo nell'ingiustizia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Devo dire, da una parte c'è la depressione di queste ingiustizie e di queste tensioni razziali e sociali che ci sono in questa grande America. Dall'altra il messaggio è per il cambiamento, per l'ottimismo, un messaggio per introdurre nuove regole, un messaggio di rappacificazione fra comunità afroamericana e polizia. Non so se sarà possibile, ma è meglio chiudere su una nota di ottimismo, augurandoci davvero che le cose possano cambiare. Auguriamocelo con una canzone senza tempo, con la grande canzone di Bob Dylan, The Times They Are Changing, i tempi stanno cambiando, quando il grande cantante dice: imparate a nuotare, altrimenti andrete a fondo come dei piombi. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.